3, 2, 1. Puntata numero 9 dell'Incredulo, il programma di Radio Big World che si spinge in campi e diciamolo anche piuttosto bizzarri, tutta sta roba, il New Age, il Dalai Lama, nani e fate assortiti al servizio di druidi, scarpe da tennis, ma andiamo per noi baconiani, per noi galileiani, questa roba sono tutte baggianate. Tuttavia c'è da riconoscere che persino i nostri amici scienziati, quelli con il camice bianco serissimi e con il fonendoscopio come IAR perché l'hanno visto in televisione, quando eravamo bambini noi al pronto soccorso i dottori portavano normalmente, lo portavano al collo, ora ce l'hanno tutti sulle spalle. Ebbene, anche i nostri amici scienziati ammettono che loro di come funzionano le cose ne sanno molto poco, di alcune cose ne sanno praticamente zero, pertanto non è che siamo all'apice della nostra civiltà e non è che abbiamo capito tutto, anzi, spesso, come si ricorda, la magia di ieri è la scienza di oggi. Pertanto ci guiderà in questo percorso alla scoperta di questi temi e soggetti, dai, ammettiamoli anche un po' borderline per parlare in creolo, ci aiuterà Elisa. Elisa che è tanto maga, passatemelo, ma anche scienziata. Elisa! Buongiorno Giorgio, addirittura maga e scienziata, cosa bella. Un po' streghetta. Sei una specie di Einstein con i poteri di Mago Merlino. Alla fine, con spirito molto galileiano, hai cominciato a studiare temi che galileiani non sono e hai tirato fuori delle conoscenze mica da poco, che tra l'altro le stai passando a noi, a me, mettiamola così. E Elisa, oggi di che cosa parleremo? Di che cosa strana ti sei tirata fuori dal cappello? Di un argomento, diciamo, molto comune sulla bocca di tutti, che però alla fin fine spesso viene, diciamo, la parola viene usata senza saperne il vero significato, cioè i chakra. Oh mamma mia, stavolta sì che andiamo nel Dalai Lama. I chakra, ma che sono? Diciamo, i 7 chakra principali possono essere paragonati a dei trasformatori elettrici, cioè raccolgono l'energia che scorre nel nostro corpo, la lavorano, la trasformano per poi ridistribuirla di nuovo. E è bene che siano sempre in equilibrio, perché se no questa energia o non c'è o ce n'è troppa o non è tanto, diciamo, salutare. Nelle tradizioni orientali il corpo umano è composto da tanti livelli, sia fisici che sottili. Per sottili si intende quello che comunemente viene definita l'aurea. Nei testi sacri buddisti ricorre spesso il concetto per cui noi siamo creature con un corpo fisico che usiamo per camminare, mangiare, stare al mondo, guardare la televisione, eccetera, eccetera. Ma la nostra esistenza non si esaurisce in questa fisicità, quindi abbiamo anche un corpo sottile, regolato da flussi energetici sottili che sono comunque regolati e guidati dai chakra. L'energia quindi che si accumula nei chakra consente di avere un'attività intellettuale, emotiva e spirituale. Ti ho perso? Se siete sempre vivi? Ci sono e mi facevo questa domanda, e cioè, quando vado in ospedale e mi fanno le radiografie, non è che poi il radiografo, il dottore, mi dice no guarda perché al chakra della mano c'hai un problema, cioè questa roba non si vede con le macchine, pertanto questi chakra dove stanno nel corpo? Allora io ti parlo dei 7 principali, perché i chakra sono tantissimi e diciamo quelli che vengono considerati di più sono i 7 principali. Il primo, che è il primo chakra chiamato Muladhara o chakra della radice, è nella parte inferiore del bacino, quindi tra il coccige e il pube. Il secondo viene chiamato Svadhisthana o chakra splenico, sta nella metà inferiore del ventre, quindi un pochino sotto l'ombelico. Il terzo Manipura è il chakra del plesso solare, quindi sta sotto lo stomaco alla fine delle costole. Quarto chakra, Anahata, è chakra del cuore, quindi sta sul plesso del cuore, quindi zona pettorale. Il quinto chakra, Vishuddha, sta nel chakra della gola, sta appunto nella parte dell'inferiore del collo, della parte della gola. Poi abbiamo il sesto chakra, Adinya, che è il chakra del terzo occhio, che sta quindi sulla fronte. Poi il settimo chakra, che è Sahasrara, che è il chakra della corona e sta quindi sopra la testa. Tenete presente che di tutti i sei chakra, perché sono, c'è la corrispondenza davanti e dietro. Per il chakra della gola, davanti è sul collo e dietro è sulla nuca. Il chakra del cuore, davanti è sul cuore e dietro è sul dietro dei polmoni, quindi all'altezza dei polmoni. Ma questi chakra, Elisa, sono allora tipo i meridiani della medicina cinese, cioè si sa che ci sono, ma non si vedono fisicamente, perché con questo linguaggio un po' massone, no? Sono sottili. Però anche la medicina tradizionale riconosce, per esempio, l'agopuntura, e il dottore che ha studiato sui manuali di fisiologia, di solito sponsorizzati da qualche casa farmaceutica, però a quel punto è abilitato, sa dove sono e è abilitato a fare l'agopuntura proprio col camice bianco da medico. Ma e per quello che riguarda i chakra, come si fa a, per esempio, sapere se questi chakra sono malati, che sono organi? Sono collegati ad alcuni organi, quindi per esempio il secondo chakra, che è della pancia, diciamo è collegato alla parte più dell'intestino. Il terzo chakra, plesso solare, considerato il fegato e milza. Cuore e polmoni sono quindi del chakra del cuore. I reni sono collegati al secondo perché sono comunque bassini. La testa, quindi mal di testa, è collegato al chakra del terzo occhio e così via. Non sono organi, però fra i chakra e la medicina cinese, comunque i meridiani, c'è molta interconnessione, perché comunque hanno nomi diversi, ma l'epoca in cui sono stati scoperti e le funzioni che hanno sono molto molto molto simili. Si capisce se un chakra è malato, quindi non funziona bene, da come noi stiamo emotivamente e fisicamente in quella situazione. Per esempio, se un chakra, partiamo dal primo, che è il chakra della radice, è la parte che ci dovrebbe dare stabilità psichica, quindi l'ancoraggio a terra, si dice essere centrati, essere qui e ora, quindi ha la capacità di governare gli istinti. Tende a essere un chakra molto grande, perché per noi è importante, è quello che ci fa sopravvivere, è dove vengono praticamente assorbite le energie dalla terra e scaricate le tensioni eccedenti. Diciamo è il chakra degli istinti primordiali, quindi bere, mangiare, dormire, accoppiarsi, nel senso di fare un'attività fisica per la riproduzione. Ti accorgi se un chakra è, se questo chakra è un pochino scarico o svalvolato, quando hai delle persone che vivono in un mondo tutto loro, quindi non hanno senso del pericolo, non hanno senso dell'istinto, dormono, non mangiano, è indifferente, sono un po' come Alice nel paese delle meraviglie, ok? Questo può essere dovuto a un trauma, uno shock che hanno subito, per cui per sopperire a questo shock il primo chakra si è scaricato. Ossia, fammi capire, se questo primo chakra fosse carico di energia, ma che è un telefonino, praticamente una persona non avrebbe questi sparioni, che peraltro sono tipici di molte altre persone. Diciamo che una persona nella vita di tutti i giorni sarebbe molto centrato, quindi non pensare al razionale, quindi al manager in giacca e cravatta che risponde a tutte le cose in maniera molto logica, ma una persona che nelle determinate situazioni sa di esserci, sa di attraversarle, sa che se c'è un problema lo deve risolvere, ma è nella presenza, piuttosto che magari una persona che in un problema perde la testa perché dice: io non so da che parte di girarmi, io non so come fare, perché non riesce, diciamo, a essere nella presenza, ma divaga, come se fosse un, diciamo, un fiore di Bach. Sarebbe il clematis, quello che sogna, quello che non è nella presenza del qui ed ora. Comprendo, quindi a volte quando sono un po' sballato, e sono sballato sì in parte per la vita che conduco, in parte probabilmente per quello che faccio nella mia vita quotidiana, e magari mi arrabbio, magari mi perdo la pazienza o perdo la testa perché ho da fare molte cose, in quel caso lì probabilmente ho un chakra della radice che è un po' scarico. Esatto. E si può ricaricare in tante maniere, per esempio o mettendosi una luce di colore rosso, che il rosso è il suo colore, oppure prendendo una pietra di diaspora rosso e tenendosela nelle tasche dei pantaloni. Pensate, ossia il colore aiuta in qualche modo a rinvigorire questo chakra, a ridargli energia. Sì, perché i colori sono delle vibrazioni, e come abbiamo imparato nelle scorse puntate, sappiamo che le vibrazioni buone entrano in risonanza con il nostro corpo e quindi ci fanno stare meglio. Un chakra scarico, per esempio, questo primo chakra scarico ha anche delle conseguenze fisiche? Sì, la mancanza di assorbire energia, quindi ci si sente molto molto stanchi. Può anche, se troppo scarico o troppo carico, alcuni degli istinti primordiali possono venire a mancare, tipo il non fare un corretto riposo, il non fare una corretta alimentazione, il non avere al limite, parlando proprio al limite, un istinto di sopravvivenza, quindi attraversare la strada senza nemmeno guardare, e avere degli scompensi durante l'atto sessuale. Tenete presente che è l'atto sessuale, però visto come pratica fisica, ecco, come puro senso di accoppiamento, perché la parte, diciamo, più dell'amore, della gioia, della sessualità è espresso dal secondo chakra, che è quello sotto l'ombelico. Quindi quelli che a 40 anni si prendono il Viagra perché gli dà una bella sensazione, la prestazione, diciamo, un po' più performante, però allo stesso tempo lo fanno perché la libido gli è molto scesa, probabilmente c'è un collegamento con questo chakra? Con questo e con il secondo, perché alcune cose sono molto interconnesse, non dobbiamo vedere i chakra come delle sezioni completamente separate, ma c'è una comunicazione fra loro. Il secondo chakra è appunto il legato al piacere, alla gioia di vivere, alla sessualità espressa al massimo delle potenzialità. Quindi chi prende il Viagra può avere sia uno scompenso dal punto di vista del primo che del secondo. A questo chakra sono legati anche tutti i problemi che riguardano la parte dell'intestino, quindi del nostro secondo cervello, intestino, pancreas, colon, tutta questa parte qua che risiede dal sottorombelico in poi, e quindi anche la parte dei reni, che sono un pochino più in alto, però fanno parte invece di questo chakra qui. Questo vuol dire che se uno ha un chakra molto molto scarico può essere tendente alla depressione e a non avere assolutamente né gioia di vivere né gioia di avere rapporti sessuali. E conseguenze fisiche di questo chakra che non funziona? Principalmente conseguenze fisiche a livello dell'apparato digestivo, quindi parte bassa, e depressione, quella la vedi, cioè una persona completamente apatica, ogni giorno è uguale all'altro, che non si alza nemmeno dal letto, ma non perché è stanco fisicamente, ma perché proprio non ne ha voglia, ha un secondo chakra molto scarico. Questo secondo chakra come lo si ricarica eventualmente? Colore è l'arancio e invece la pietra è la corniola. D'accordo, quindi sempre tenendo questa pietra in tasca oppure circondandosi del colore arancione, una roba del genere, è esatto. Fattibile ricaricarlo? Sì, è chiaro, ci vuole un bel po' di tempo, però non è che dall'oggi al domani uno sta meglio, però se uno vuole fare il fai da te, è chiaro che può adottare queste due tecniche. Poi ci sono altre tante altre tecniche, magari poi vi spiegherò nelle prossime puntate su come andare a riequilibrare i chakra. E per questi primo e secondo chakra, perché insomma essendo sette probabilmente ci necessiteranno più lezioni per riuscire a capirli bene, ma per questi primi due chakra esistono anche soluzioni di altro tipo, per esempio, che ne so, per riequilibrare il primo fa bene andare a camminare, oppure fa bene una tisana di tiglio e platano, che ne so, ci sono dei rimedi anche più prettamente fisici o fisicisti? Ci sono tecniche che potete adottare da altri operatori, quindi fare reiki o attività di riequilibrio dei chakra tramite la pranoterapia, e sicuramente per il primo chakra è molto utile fare attività primordiali, quindi danza, ballo, attività fisiche molto tribali che quindi ci riconducano alla terra, quindi anche ascoltare della musica di questo tipo può aiutare. Per il secondo chakra è sforzarsi di reagire, quindi uscire, fare passeggiate, fare qualcosa che ci piace, quindi stare a contatto con le persone, con la natura, con gli amici, godersi un film, godersi la buona musica, godersi una bella scena. Questo rifà tornare un pochino di più la gioia di vivere. Insomma, gente, cari ascoltatori di Radio Big World, ci siamo. Siamo entrati tra un po' alieni, Atlantide, tavolette di smeraldo, come se piovesse. Però ricordiamolo, lo sappiamo, Elisa, la nostra guida, la nostra maestra, la nostra esploratrice dell'occulto, è una persona molto quadrata e se dice quel che dice, una ragione ci sarà. Mi viene in mente, che ne so, gli Ultra quando si mettono a cantare intorno a una torcia di colore rosso, chissà che non stiano ricaricando i loro chakra. Grazie Elisa per questa prima introduzione a questo argomento che, al di là delle stupidaggini, è un argomento molto serio, trattato da persone serissime e su cui sono stati scritti un'infinità di libri e alcuni sono effettivamente anche molto interessanti. Elisa, grazie. Grazie Giorgio, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e spero di avervi incuriosito con questi chakra e di poter continuare a raccontarvi questi meravigliosi centri energetici nelle prossime puntate. Elisa, già che è di colore rosso, aiuta anche il vino? Non lo so, prova, vediamo, prova a ubriacarti e dimmi se hai trovato radicamento a terra la prossima settimana. Olè, grande Elisa.